Libro de Giubile. 39. Giuseppe e Giacobbe soggiorò nella terra della emigrazione di suo padre, la terra di Canaan. Quelli che erano della famiglia di Giacobbe avevano fatto scendere Giuseppe, ragazzo di 17 anni, in Egitto, e lo aveva comperato Potifar, eunuco del faraone, capo dei cuochi. Ed egli nominò Giuseppe a capo di tutta la sua casa e la benedizione del Signore fu nella casa dell'egiziano. Poiché il Signore faceva prosperare Giuseppe e tutto quel che egli faceva. E l'egiziano affidò tutto a Giuseppe. Poiché aveva visto che il Signore era con lui e dava successo a tutto quel che egli faceva. E Giuseppe era di assai bello aspetto. E la moglie del suo padrone alzò i propri occhi, lo vide, se ne innamorò, e lo pregò a che si coricasse con lei. Ma egli non le si concesse, e si ricordò del Signore e delle parole che, di fra le parole di Abramo, disse suo padre Giacobbe. Che, cioè, non vi è uomo che possa commettere impurità con la donna altrui, e con donna che abbia marito, e che vi è, per lui, condanna di morte stabilita. Per lui, nei cieli, al cospetto del Signore eccelso e che, nei suoi riguardi, il peccato, nel libro eterno, ascende per l'eternità, al cospetto del Signore. E Giuseppe ricordò queste parole, e non volle coricarsi con lei. Ed ella lo pregò, per un anno o due, ma egli non volle ascoltarla. Ed ella lo costrinse, lo prese in casa per costringerlo a coricarsi con lei e chiuse la porta di casa, ma egli le sfuggì di mano. Lasciò il suo abito nelle sue mani, ruppe la porta e fuggì fuori dal suo cospetto. Ed ella vide che egli non si coricava con lei e lo calunniò davanti al suo padrone dicendo, «Il tuo servo ebreo, che tu tanto ami, voleva costringermi a coricarsi con me». E quando io ho alzato la voce, è fuggito e, quando lo acchiappai, ha lasciato nelle mie mani il suo vestito ed ha rotto la porta. E l'egiziano vide il vestito di Giuseppe e la porta rotta, ascoltò le parole di sua moglie e pose Giuseppe in prigione. Nel luogo ove stavano i prigionieri che il re aveva messo in prigione. E Giuseppe stette colà, in prigione. E il Signore gli elargì favore e misericordia di fronte al capo dei carcerieri, poiché costui vedeva che il Signore era con lui e che il Signore faceva prosperare tutto quel che egli faceva. E il capo dei carcerieri gli affidò tutto e non vi era nulla di cui il capo dei carcerieri prendesse conto con lui. Poiché era Giuseppe a far tutto e il Signore perfezionava. Ed egli rimase colà 2 anni. E in quel tempo il faraone, re d'Egitto, si adirò contro 2 suoi eunuchi, contro il coppiere e il panettiere li mise in prigione nella casa del capo dei cuochi, prigione nella quale era tenuto Giuseppe. Ed il capo dei carcerieri stabilì che Giuseppe li servisse, ed egli li serviva avanti a lui. Ed ambedue, il coppiere e il panettiere, ebbero un sogno e lo raccontarono a Giuseppe. E, così come egli glielo interpretò, accadde. Il faraone fece ritornare il coppiere alle sue funzioni e uccise il panettiere. Così come Giuseppe aveva loro interpretato. E il coppiere si dimenticò che Giuseppe, in prigione, gli aveva annunziato quel che gli sarebbe accaduto e non si ricordò di dire al faraone in qual modo Giuseppe gli aveva parlato, perché se ne dimenticò. E, in quel tempo, il faraone ebbe, in una notte, due sogni circa la carestia che sarebbe stata sulla terra. Si svegliò dal suo sonno e chiamò tutti gli interpreti di sogni che erano in Egitto e gli incantatori, raccontò loro i suoi due sogni, ed essi non riuscirono a comprenderli. E, allora, il capo coppiere si ricordò di Giuseppe e parlò di lui al faraone, che lo fece uscire di prigione e gli disse, al suo cospetto, i suoi due sogni. E disse, innanzi al faraone, che i suoi due sogni erano un sol sogno e disse, verranno, su tutta la terra d'Egitto, 7 anni di abbondanza e, poi, 7 anni di carestia della quale non vi è stata la simile in tutta la terra. Ora, il faraone stabilisca, in tutto il territorio di Egitto, dei luoghi di raccolta e di paese in paese, nei giorni di abbondanza. Vi si conservino gli alimenti, che serviranno per i 7 anni di carestia e la terra, anche se questa sarà assai forte, non perirà. E il Signore dette a Giuseppe favori e grazie avanti agli occhi del faraone che disse ai suoi ministri, «Non troveremo un uomo intelligente e colto come costui, poiché su di lui vi è lo spirito del Signore». E lo nominò, poi, su tutto il suo regno e lo mise a capo di tutto l'Egitto, e lo fece salire sul suo secondo carro, gli fece indossare un abito di bisso, gli sospese al collo una collana d'oro, si inchinò avanti a lui e disse, «El El Vabrir», mise un anello nelle sue mani e lo pose a capo di tutta la sua casa, lo rese grande e gli disse, «Non vi è alcuno più grande di te, eccettuato il trono soltanto». E Giuseppe dominò in tutta la terra d'Egitto e tutti i dignitari, i ministri, e i dipendenti lavoratori del faraone lo amarono, poiché egli, dato che dominava con rettitudine tutti i popoli della terra, procedeva sulla giustizia, non aveva superbia, non faceva ingiustizia, ed era incorruttibile. E si pacificò il territorio d'Egitto davanti al faraone per mezzo di Giuseppe, poiché il Signore stava con lui e gli dava favori e misericordia. Per tutti i suoi parenti, di fronte a tutti coloro che lo conoscevano e udivano sue notizie. E il regno del faraone prosperò e non vi fu alcun malvagio. E il re chiamò Giuseppe col nome di Sefentifens e gli dette in moglie la figlia di Potifar, sacerdote di Elopoli, capo dei cuochi. Quando Giuseppe arrivò presso il faraone aveva 30 anni. E in quell'anno morì Isacco. E avvenne quel che Giuseppe aveva detto a proposito dell'interpretazione dei due sogni. Vi furono 7 anni di abbondanza e la terra d'Egitto produsse molto, 18 misure per ogni misura. E Giuseppe raccolse gli alimenti di paese in paese e vi fu abbondanza di grano fino a non poterlo calcolare e misurare, dato che era moltissimo. Giuda e Tamar. E nel 45° giubileo, nel secondo settennio, anno secondo, Giuda dette al suo primogenito, Er, in moglie, una delle figlie di Aram, di nome Tamar. Egli la odiò e non si coricò con lei perché sua madre era delle figlie di Canaan ed egli avrebbe voluto prendersi una moglie della tribù di sua madre, ma suo padre, Giuda, non glielo aveva permesso. E questo, il primogenito, era cattivo e il Signore lo uccise. E Giuda disse a suo figlio Onan, entra dalla moglie di tuo fratello e prendila in alevirato e non far estinguere la stirpe di tuo fratello. E Onan sapeva che la stirpe non sarebbe stata sua, ma di suo fratello. Entrò nella casa della moglie del fratello e sparse il seme per terra. Fu cattivo davanti agli occhi del Signore e il Signore lo uccise. E Giuda disse a Tamar, sua nuora, sta in casa di tuo padre, come vedova, fin quando sarà cresciuto Shela, mio figlio, ed io ti darò in moglie a lui. E Shela crebbe, ma Bedesuel, moglie di Giuda, non permise che Shela, suo figlio, si sposasse. Bedesuel morì nel quinto anno di questo settennio. E nel sesto anno Giuda salì a Timna per tosare le proprie pecore ed ella depose gli abiti vedovili, indossò un velo, si abbellì. E si mise sulla porta che era in direzione della via di Timna. E Giuda, mentre camminava, la incontrò, pensò che fosse una donna dissoluta e lei disse, entro da te? Ella gli disse, entra. Ed egli entrò. Ed ella gli disse, dammi il prezzo del mio amplesso? Ed egli le disse, non ho che l'anello delle mie dita, il mio bracciale ed il mio bastone. Ed ella gli disse, dammeli fin quando mi manderai il prezzo del mio amplesso. Egli glieli dette e le disse, ti manderò un capretto. Ed ella rimase incinta di lui. E Giuda andò fra le sue pecore ed ella andò a casa del proprio padre. E Giuda le inviò un capretto a mezzo del pastore Adolamita, che non la trovò e chiese alla gente del paese, dov'è la meretrice che era qui? E gli risposero, qui non c'è meretrice. Presso di noi non abbiamo meretrici. Egli ritornò e disse che non la aveva trovata e gli disse, ho chiesto alla gente del paese e mi hanno detto che là non c'erano meretrici. Ed egli disse, alzati. Andiamo. Che ciò non ci sia di scherno. E, quando furono passati 3 mesi, fu manifesto che ella era incinta e dissero a Giuda, ecco, Tamar, tua nuora, è incinta per fornicazione. E Giuda si reò a casa del padre di lei e disse ai genitori e ai fratelli di lei, fatela uscire. Poiché ha commesso cose impure in Israele, che la si bruci. E quando la fecero uscire per bruciarla, ella mandò a suo suocero l'anello, il bracciale e il bastone dicendo, riconosci di chi è questa roba, poiché io sono incinta di lui. E Giuda lo seppe, e disse, Tamar è più giusta di me. E che non la si bruci più. E, per questo motivo, ella non fu data a Shela e Giuda non le si avvicinò una seconda volta. E, in seguito, ella generò 2 figli, per Esezerab, nel 7° anno di questo secondo settennio. E, poi, si compirono i 7 anni di raccolti abbondanti che Giuseppe aveva predetti al faraone. E Giuda conobbe la brutta azione che aveva fatto, poiché si era coricato con la propria nuora. Apparve turpe ai suoi propri occhi? Seppe che aveva peccato ed errato poiché aveva scoperto i vestiti di suo figlio e cominciò a piangere e a pregare il Signore a causa del proprio peccato. E, poiché aveva pregato assai ed aveva pianto, noi, in sogno, gli dicemmo che sarebbe stato perdonato ed egli non lo fece più. E per lui, poiché era rinsavito dal suo peccato e dalla sua ignoranza, ci fu il perdono? Poiché grande peccato innanzi al Signore nostro Dio. E chiunque agisca in tal modo, e si corichi con la propria nuora, lo mettano al fuoco affinché egli vi bruci dentro, dato che, su di loro, vi è impurità e contaminazione. Li brucino al fuoco. E anche tu, o Mosè, ordina ai figli di Israele che non vi sia, fra loro, impurità, poiché chiunque si corica con la nuora, e con la suocera commette cosa impura. Brucino, al fuoco, l'uomo che si corica con lei ed anche la donna e farà cessare l'ira e la flagellazione da Israele. E anche a Giuda noi avevamo detto che i suoi due figli non si coricassero con lei. E, perciò, la sua stirpe stette ad altra tribù e non sarà sradicata, poiché egli procedette con l'integrità del suo sguardo e cercò la giustizia. Poiché, secondo la legge di Abramo che aveva comandato ai suoi figli, egli voleva bruciarla al fuoco. E nel primo anno del terzo settennio del 45° giubileo la carestia cominciò ad arrivare sulla terra, e la pioggia rifiutò di essere data alla terra poiché non vi era alcunché che scendesse. E la terra si inaridì. E solo nella terra di Egitto vi erano alimenti poiché Giuseppe li aveva raccolti per dar loro il cibo. E, nei 7 anni di abbondanza, aveva raccolto il seme della terra e lo aveva conservato. E gli egiziani vennero da Giuseppe affinché egli desse loro il cibo ed egli aprì i depositi dove stava il grano del primo anno e lo vendette, in cambio di oro, ai popoli della terra. E Giacobbe sentì dire che in Egitto vi era cibo e inviò i suoi 10 figli, ma non inviò Beniamino, perché gli prendessero cibo in Egitto. Ed essi giunsero con altri viandanti. Giuseppe li riconobbe, ma essi non riconobbero lui. E parlò con loro, li interrogò, disse loro, «Non siete voi, delle spie?» Siete venuti a spiare le mosse del paese. E li rinchiuse in carcere. Poi li liberò, incarcerò solo Simeone, e mandò via i suoi 9 fratelli. E riempì le loro sacche di grano ed il loro oro glielo pose nelle sacche, ma essi non se ne accorsero. E, poiché essi gli avevano detto che vi era il loro padre, vivo, e il loro fratello minore, ordinò loro di portargli il loro fratello minore. Ed essi salirono dalla terra d'Egitto, giunsero nella terra di Canaan. E dissero al loro padre tutto quel che era loro capitato, ed in qual modo il governatore del territorio avesse parlato con loro. E che si era preso Simeone, fin quando non gli avessero portato Beniamino. E Giacobbe disse, «Mi avete privato dei figli, Giuseppe non c'è, neanche Simeone, vi prendete anche Beniamino? Siete cattivi. E disse, mio figlio non verrà con voi, sia che si ammali. Poiché la madre generò due figli, uno è morto e voi mi togliete anche questo, sia che sia preso dalla febbre durante il viaggio, voi farete precipitare la mia vecchiezza, per il dolore, nella morte. Perché aveva visto che nelle loro sacche vi era tutto il loro oro e, perciò, ebbe paura di mandarlo. E la carestia aumentò e si rinforzò nella terra di Canaan e in tutta la terra, eccettuato che in Egitto, poiché molti egiziani avevano raccolto, per alimento, le loro semenze fin da quando videro Giuseppe raccogliere le semenze, e riporle nei depositi, e custodirle per gli anni di carestia. E gli egiziani se ne cibarono nel primo anno della loro carestia. E quando Israele vide che la carestia si era aggravata assai sulla terra, e che non vi era scampo, disse ai suoi figli, andate, ritornate e, affinché non moriamo, portateci cibo. Ed essi gli dissero, noi non andremo. Se nostro fratello minore non viene con noi, noi non andremo. Ed Israele vide che, se non lo mandava con loro, tutti, di fronte alla carestia, sarebbero morti. E Ruben disse, consegnalo nelle mie mani. E se non te lo restituirò, uccidi due miei figli in sua vece. Ed egli gli disse, mio figlio non verrà con te. E Giuda si avvicinò e gli disse, mandalo con me, se non lo farò tornare, sarò colpevole innanzi a te per tutto il tempo della mia vita. Ed egli lo mandò con loro, nel secondo anno di questo settennio, all'inizio del mese. E giunsero in territorio di Egitto con tutti coloro che vi si recavano, e, con i loro doni nelle loro mani, olio di mirra, mandorle, terebinzio e miele. E giunsero e si fermarono avanti a Giuseppe, che vide Beniamino, lo riconobbe, e disse loro, costui è il vostro fratello minore? Essi dissero, sì. Lo è, ed egli disse, figlio mio, il Signore ti sia propizio. E li mandò in casa sua, fece anche uscire, in pro loro, Simeone e fece loro un pranzo. Ed essi gli offrirono i doni che gli avevano portato. Ed essi mangiarono al suo cospetto ed egli dette la porzione a tutti loro. Ma la porzione di Beniamino fu sette volte più abbondante della porzione di tutti loro. Ed essi mangiarono, bevvero, si alzarono e passarono la notte presso i loro asini. E Giuseppe pensò un piano per conoscere il loro pensiero e se avessero propositi pacifici fra loro e disse a colui che soprintendeva alla sua casa, riempi tutte le loro sacche di grano e, il loro oro, riponilo in mezzo ai loro recipienti. Il mio bicchiere, nel quale io bevo, ponilo nella sacca del minore, il bicchiere d'argento, e mandali via. E il soprintendente fece come gli aveva detto Giuseppe, riempì loro le sacche di ogni cibo, pose nelle loro sacche anche il loro oro e il bicchiere lo pose nella sacca di Beniamino. E, all'alba, essi se ne andarono e, quando uscirono di là, Giuseppe disse al suo uomo, seguili. Corri! Adirati con loro dicendo, invece di farmi del bene, mi avete gratificato col male. Mi avete rubato il bicchiere d'argento nel quale beve il mio padrone. Fa ritornare il loro fratello minore, e fa'lo venire subito, prima che io ritorni al mio tribunale. E quello corse dietro a loro, parlò loro in questo modo, detto sopra, ed essi gli dissero, Absit, dai tuoi servi, una tal cosa. Noi non facciamo una tal cosa e non abbiamo rubato alcun oggetto dalla casa del tuo padrone. Ed anche l'oro che prima abbiamo trovato nelle nostre sacche, lo abbiamo riportato, noi, tuoi servi, dalla terra di Canaan. In qual modo, dunque, noi avremmo rubato qualcosa? Adesso perquisisci noi e le nostre sacche e, se trovi il bicchiere nella sacca di uno di noi, sia egli ucciso e noi e i nostri asini serviremo il tuo padrone. Ed egli disse loro, non sarà così. Io prenderò come servo solo colui presso cui troverò. E, quanto a voi, tornatevene in pace a casa vostra. E cominciò a perquisire, fra i loro oggetti, dal maggiore e finì al minore e fu trovato nella sacca di Beniamino, il più piccolo. E si meravigliarono, si strapparono le vesti, caricarono i loro asini, ritornarono al paese, giunsero alla casa di Giuseppe e tutti si prostrarono a lui, faccia a terra. E Giuseppe disse loro, avete agito male, ed essi gli dissero, che dire? E come noi contestare che il nostro Signore ha trovato la colpa di noi, tuoi servi? Eccoci, noi siamo servi a te, nostro Signore, e i nostri asini tuoi. E disse loro Giuseppe, anche io temo il Signore. Quanto a voi, andatevene alle vostre case. E il vostro fratello minore, poiché avete agito male, sia mio servo. Non sapete che ogni uomo, come io bevevo in questo bicchiere, tiene assai al proprio bicchiere? E voi me lo avete rubato. E Giuda disse, su di noi. Signore, posso dire una parola nell'orecchio del mio Signore? La madre a nostro padre, tuo servo, generò due fratelli. Uno uscì, si perdette, non fu trovato e, da sua madre, è rimasto solo costui e nostro padre, tuo servo, lo ama, e la sua anima è legata con l'anima di costui. E se noi andiamo dal tuo servo, nostro padre, e se il giovinetto non è con noi, nostro padre morrà e si struggerà, per il dolore, fino a morire. Che possa restare soltanto io, come servo del mio Signore, al posto del giovinetto e che egli, poiché mi fu affidato dalle mani di nostro padre, tuo servo, se ne vada con i suoi fratelli. E se io non lo farò tornare, il tuo servo sarà colpevole, verso mio padre, per sempre. E Giuseppe vide che il cuore di tutti loro era concorde al bene scambievole, non potete più pazientare. E disse loro che egli era Giuseppe e parlò con loro in lingua ebraica, li abbracciò e pianse. Essi non lo riconobbero e cominciarono a piangere anche loro. E disse loro, non piangete per me. Affrettatevi e portate mio padre presso di me. Che io lo veda prima che io muoia, e anche gli occhi di mio fratello Beniamino mentre essi vedono. Perché questo è il secondo anno di carestia e poi vi saranno altri 5 anni e non vi saranno messi, N, frutti N, arature. Scendete subito alle vostre case, e non morirete di fame. E non addoloratevi per voi e per i vostri beni. Poiché il Signore mi inviò innanzi a far preparativi e a far sì che vivessero molti popoli. E dite a mio padre che io sono ancora in vita e anche voi, ecco, vedete che il Signore mi ha costituito come padre del Faraone, e sì che io abbia potestà nella sua casa e su tutta la terra d'Egitto. E portate a mio padre la notizia di tutta la mia gloria e di tutto quel che il Signore, in onori e ricchezze, mi ha dato. E dette loro, per ordine del Faraone, carri, provviste per il viaggio, e a tutti loro dette vestiti colorati e argento. E anche al loro padre il Faraone mandò abiti, argento, 10 asini che portavano grano, e li congedò. Ed essi salirono e dissero al loro padre che Giuseppe era vivo, che misurava e distribuiva grano a tutti i popoli della terra e che aveva potestà su tutta la terra d'Egitto. E il loro padre, poiché era trepidante di mente, non ci credette. E quando vide i carri che Giuseppe aveva mandato, il suo spirito si rinnovò e rivisse, egli disse, «È molto, per me, che Giuseppe sia vivo. Che io scenda e lo veda prima che io muoia». E Israele partì da Arran, dalla propria casa, all'inizio del terzo mese e andò per la via del Pozzo del Giuramento. E offrì sacrificio al Dio di suo padre, Isacco, il 7 di questo mese. E Giacobbe si ricordò del sogno che aveva sognato in Betele ed ebbe paura di scendere in Egitto. E, pensando di mandar a dire a Giuseppe di andar lui da lui e di non discendere egli stesso, stette colà 7 giorni nel caso che, in una visione, potesse vedere se scendere o restare. E celebrò la festa delle messi, delle primizie col grano vecchio poiché in tutta la terra di Canaan, poiché vi era penuria per tutte le fiere, gli animali, gli uccelli e gli uomini, non vi era abbondanza di alcuna semenza. E il 16 del mese il Signore apparve a Giacobbe e gli disse, «Giacobbe, Giacobbe!» E disse, «Eccomi!» Ed egli, «Io sono il Dio dei tuoi padri Abramo e Isacco. Non aver timore di scendere in Egitto poiché io, colà, farò di te un gran popolo. Io scenderò insieme con te, ti porterò io. In questa terra sarai seppellito e Giuseppe porrà le sue mani sui tuoi occhi. Non temere. Scendi in Egitto». E parti Arono, lui, i suoi figli e figli dei suoi figli e fecero salire sui carri il loro padre e i loro beni. Israele partì dal Pozzo del Giuramento il 16 di questo terzo mese ed andò in Egitto. E Israele mandò avanti a lui, da Giuseppe, suo figlio Giuda, perché esplorasse la terra di Goshen dato che Giuseppe aveva detto ai suoi fratelli, affinché fossero vicino a lui, di andare e di soggiornare colà. E la terra di Goshen era bella, nel territorio di Egitto, e vicina a lui, per tutti loro e per gli animali. Questi sono i nomi dei figli di Giacobbe che si recarono in Egitto col loro genitore Giacobbe. Ruben, primogenito di Israele e i suoi figli, Hanok, Pallu, Erson, e Carmi, 5. Simeone, e i suoi figli. E questi sono i nomi dei suoi figli, Emuel, Yamin, Oad, Yakin, Soar, e Shaul, figlio di Fanisawit, 7. Levi, e i suoi figli. E questi sono i nomi dei suoi figli, Gerdson, Chiad, Merari, 4. Giuda, e i suoi figli. E questi sono i nomi dei suoi figli, Shela, Perez, e Zerà, 4. Issacar, e i suoi figli. E questi sono i nomi dei suoi figli, Tola, Puva, Giobbe, e Shimron, 5. Zabulon, e i suoi figli. E questi sono i nomi dei suoi figli, Sered, Elon, e Yaleel, 4. Questi sono i figli di Giacobbe, e i loro figli che la generò a Giacobbe, in Mesopotamia, 6 e Dina, l'unica loro sorella. E tutti i figli di là, e i loro figli che entrarono in Egitto con Giacobbe sono 29 e 30 il loro padre Giacobbe. E i figli di Cilpa, serva di là, moglie di Giacobbe, sono Gad e Aser. E questi sono i nomi dei loro figli che entrarono con loro in Egitto, figli di Gad, Sifion, Aghi, Shuni, Esbon, Areli, e Arodi, 8. E i figli di Aser, Imna, Ishva, Beria, e Sera, loro sorella, 6. In tutto 14. E i figli di là furono, in tutto, 44. Ed i figli di Rachele, moglie di Giacobbe, sono Giuseppe e Beniamino. E a Giuseppe, in Egitto, prima che vi arrivasse suo padre, da Asnat, figlia del sacerdote di Elopoli Potifar, nacquero Manasse ed Efraim, 3. I figli di Beniamino, Bela, Bger, Ashbel, Gera, Namen, Abedeio, Rae, Sanaim, Afem, e Gaum, 11. E tutti i figli di Rachele sono 14. E i figli di Bila, serva di Rachele, moglie di Giacobbe, sono Dan e Neftali. E questi sono i nomi dei loro figli che entrarono con loro in Egitto, i figli di Dan, Cusi, Sammun, Asudi, Iac, Salomone, 6. Morirono in Egitto, nell'anno in cui vi entrarono, e ad Dan rimase solo Cusi. Questi sono i nomi dei figli di Neftali, Yeel, Guni, Ieser, Shillem, e Ivo, 6. E Ivo morì in Egitto, dove nacque, dopo gli anni di carestia. E tutti i figli di Rachele sono 26. E tutti i figli di Giacobbe che entrarono in Egitto sono 70. Questi sono, dunque, i figli e figli dei figli. In tutto, 75 sono 5 quelli che morirono in Egitto, senza sposarsi e senza figli. E, nella terra di Canaan, a Giuda morirono i suoi due figli, Er e Onan, senza figli e figli di Israele seppellirono i morti e furono costituiti in 70 popoli. 45. E Israele entrò nel territorio di Goshen, in Egitto, al principio del quarto mese del secondo anno del terzo settennio del 45° giubileo. E Giuseppe venne a Goshen ad accogliere suo padre Giacobbe, lo abbracciò e pianse. E disse Israele a Giuseppe, «Poiché ti ho visto, possa io, fin d'ora, morire. E sia, ora, benedetto il Signore, Dio di Israele, di Abramo e di Isacco che non ha negato la sua benevolenza e la sua misericordia al suo servo Giacobbe. Per me che ti ho visto mentre sono vivo, poiché si è avverata la visione che ebbi in Betel, è molto. Sia benedetto il Signore, mio Dio, nei secoli e sia benedetto il suo nome. E Giuseppe e i suoi fratelli mangiarono pane e bevvero vino al cospetto del loro padre e Giacobbe fu assai lieto perché aveva visto Giuseppe mangiare e bere, con i suoi fratelli, davanti a lui e benedì il creatore di tutto che gli aveva protetto i 12 suoi figli. E Giuseppe dette in dono a suo padre e ai suoi fratelli, perché risiedessero, la terra di Goshen e, in Rames, tutti i suoi dintorni da amministrare per conto del faraone. E Israele e i suoi figli abitarono nella terra di Goshen, parte migliore dell'Egitto e Israele, quando entrò in Egitto, aveva 130 anni. E Giuseppe dette in cibo a suo padre, ai suoi fratelli e al loro bestiame pane quanto loro bastasse per i 7 anni di carestia. E la terra d'Egitto soffrì a causa della carestia, e Giuseppe, col grano, guadagnò al faraone tutte le terre d'Egitto, e il faraone si impossessò anche degli uomini, del loro bestiame e di tutto. E finirono gli anni di carestia e Giuseppe dette alle genti che erano in Egitto semenze e cibo affinché seminassero nell'ottavo anno dato che il fiume era in piena in tutta la terra d'Egitto. Poiché per 7 anni, eccettuati pochi luoghi sulle rive del fiume, essa non era stata irrigata, ed esso ora era in piena. Gli egiziani seminarono la terra che, in quell'anno, produsse molto grano. Ed era il primo anno del quarto settennio del 45° giubileo. E Giuseppe prese, del cereale che essi avevano seminato, la quinta parte per il re e 4 le lasciò a loro per la semina, e per cibarsene stabilì una legge, per la terra d'Egitto. Ancora oggi. Ed Israele visse 17 anni in Egitto ed, in tutto, visse 3 giubilei, cioè 147 anni, e morì nel 4° anno del quinto settennio del 45° giubileo. Ed Israele benedì i suoi figli prima di morire. Disse loro quel che sarebbe capitato loro in Egitto nei tempi di poi, annunziò loro ogni cosa che sarebbe capitata, li benedì, e dette a Giuseppe 2 parti della terra. E si addormentò coi suoi padri, e fu sepolto nella grotta doppia nella terra di Canaan, vicino ad Abramo, suo padre. Nella tomba che aveva scavato per tesso nella grotta doppia nel territorio di Hebron. E consegnò a Levi i suoi scritti e quelli dei suoi padri affinché li custodisse, e rinnovasse, fino ad oggi, per i suoi figli. Dopo la morte di Giacobbe, i figli di Israele, in Egitto, aumentarono di numero, divennero molta gente, furono tutti eguali di cuore, sì che il fratello amasse i fratelli e l'uomo si aiutasse scambievolmente col proprio fratello. E crebbero in numero, si moltiplicarono e crebbero moltissimo. E fu 10 settenni tutto il tempo che Giuseppe visse dopo suo padre e non vi fu alcun demonio o alcuna cosa di male. Durante tutto il tempo che Giuseppe visse dopo Giacobbe poiché tutti gli egiziani, Durante tutto il tempo che Giuseppe visse, rispettarono i figli di Israele. E Giuseppe morì a 110 anni, 17 anni stette in territorio di Canaan, 10 anni in servitù, 3 in prigione, e 80 alle dipendenze del re, amministrando tutta la terra d'Egitto. E morirono tutti i suoi fratelli, cioè tutta la generazione. Ed ordinò ai figli di Israele, prima di morire, che portassero con loro le sue ossa quando fossero usciti dall'Egitto. E li fece giurare, per quanto riguardava le sue ossa, poiché sapeva che gli egiziani non lo avrebbero fatto uscire un'altra volta e non lo avrebbero seppellito nella terra di Canaan. Perché Mamcheron, re di Canaan, mentre stava nella terra di Esur, aveva combattuto nel Bassopiano col re d'Egitto. Lo aveva ucciso colà e aveva inseguito gli egiziani fino alle porte di Ermon, e non era potuto entrare. Perché, sull'Egitto, regnava un altro nuovo re, più forte di lui ed egli, allora, era ritornato nella terra di Canaan e si erano chiuse le porte dell'Egitto, e non vi era alcuno che potesse entrare in Egitto. E Giuseppe morì nel 46esimo giubileo, nel sesto settennio, anno secondo, e lo seppellirono in territorio di Egitto. E, dopo di lui, morirono tutti i suoi fratelli. E il re d'Egitto uscì a combattere col re di Canaan nel 47esimo giubileo, secondo settennio, anno secondo. E i figli di Israele disseppellirono le ossa dei figli di Giacobbe, tutte, eccettuate quelle di Giuseppe, e le seppellirono nel deserto, nella grotta doppia, sul monte. Ed entrarono numerosi in Egitto e pochi di essi rimasero sui monti di Ebron e tuo padre, Enbaram, rimase con loro. Ed il re di Canaan vinse il re d'Egitto e, questi, chiuse le porte d'Egitto e pensò un cattivo pensiero ai danni dei figli di Israele per causar loro afflizioni, e disse alla gente d'Egitto, «Ecco, i popoli, discendenti di Israele, sono cresciuti ed aumentati più di noi. Or su, ricorriamo, prima che essi aumentino, a uno stratagemma i loro danni. E affliggiamoli in servitù prima che ci arrivi la guerra, e prima che essi ci combattano, altrimenti anche essi si uniranno col nemico ed usciranno dalla nostra terra dato che il loro cuore e il loro volto è nella terra di Canaan. E pose su di loro dei capi operai, perché li affliggessero in servitù. E li comandarono e costruirono al faraone città fortificate, Pitom e Rames. E costruirono tutti i muri e le fortezze di Egitto che, ora, sono crollate. E li assoggettarono con oppressione e, in proporzione al male che essi loro facevano, essi aumentavano. E gli egiziani tenevano in gran dispregio i figli di Israele. Mosè. E nel settimo settennio, settimo anno del 47esimo giubileo, tuo padre venne dalla terra di Canaan. E tu nascesti nel sesto anno del quarto settennio del 48esimo giubileo, che è il tempo delle calamità sui figli di Israele. E il re d'Egitto, il faraone, ordinò, contro di loro, di gettare nel fiume tutti i loro figli maschi. e stettero a gettarli per 7 mesi, fino al giorno in cui tu nascesti. Tua madre ti tenne nascosto per 3 mesi, e si parlò di lei. Ed ella fece per te una cesta, la cosparse di pece e bitume e la pose nell'erba, presso le rive del fiume e ti ci pose dentro per 7 giorni. Tua madre veniva di notte e ti faceva popare, e, di giorno, tua sorella Maria ti difendeva dagli uccelli. E in quei giorni Tarmut, la figlia del faraone, uscì per lavarsi nel fiume, ti udì piangere e disse alle sue ebree di portarti ed esse ti portarono da lei. E ti cacciarono fuori dal cesto ed ella ebbe pietà di te. E tua sorella le disse, vado a chiamarti una ebrea che allevi e dia da poppare a questo fanciullo. Ed ella disse, va. E andò e chiamò tua madre Jochebed. Essa le dette la sua mercede ed ella ti allevò. In seguito, essendo tu cresciuto, ti portarono a casa del faraone, divenisti suo figlio, e Enbaram tuo padre ti insegnò a scrivere e, compiuti 3 settenni, ti introdusse nella corte reale. E stesti colà 3 settenni fin quando ne uscisti, e vedesti un egiziano percuotere un tuo amico che apparteneva ai figli di Israele, lo uccidesti e nascondesti nella sabbia. E all'indomani trovasti 2 dei figli di Israele nell'atto di litigare, e dicesti a quello che era violento, perché percuoti tuo fratello? E si adirò e disse, chi ti ha nominato preposto e giudice su di noi? O vuoi uccidermi come uccidesti, ieri, l'egiziano? Allora tu avesti paura e, a queste parole, fuggisti. Quarantotto. E nel 6° anno del 3° settennio del 49° giubileo andasti, e stesti colà 5 settenni e 1 anno. E ritornasti in Egitto nel 2° settennio, anno 2, del 50° giubileo. E tu sai quel che ti disse sul monte Sinai e che cosa voleva fare, con te, il principe Mastema. Quando tornasti in Egitto per via, la festa del tabernacolo. Non voleva egli con tutto il suo potere ucciderti e salvare gli egiziani dalle tue mani, quando vide che eri stato mandato a far giustizia e vendetta contro gli egiziani? Ed io ti liberai dalle sue mani e tu facesti il tuo miracolo. E il prodigio. Perché eri stato inviato per agire, in Egitto, contro il faraone, contro tutta la sua casa, i suoi servi e il suo popolo. E il Signore fece, contro di loro, grande vendetta a causa di Israele, e li colpì, e uccise col sangue, con le rane, con l'insetto, con la mosca canina, con la piaga purulenta. E anche i loro animali con la morte, con la grandine con cui distrusse tutto quel che germogliava in loro favore, con la cavalletta che divorò tutto quel che era loro avanzato dalla grandine, con la tenebra. E i loro primogeniti, di uomini e animali, e, con tutti i loro idoli, il Signore si vendicò e li bruciò col fuoco. E tutto, prima che fosse fatto, fu mandato per tua mano affinché tu agissi, e tu dovesti dirlo al re dell'Egitto avanti a tutti i suoi servi, e al suo popolo. E tutto avvenne per tuo ordine, Le 10 gravi e truculenti condanne vennero sulla terra d'Egitto affinché tu vendicassi Israele. E il Signore fece il tutto a causa di Israele, e secondo il patto che aveva fatto con Abramo, per prender vendetta su di loro così come essi, gli egiziani, li avevano dominati con oppressione. E il principe Mastemati si parò innanzi, voleva farti cadere in mano del faraone ed aiutava i maghi egiziani, e costoro ti ostacolavano ed agivano avanti a te. Il male, noi glielo lasciammo fare, ma non permettemmo che la cura venisse fatta dalle loro mani. Ed il Signore li percosse con gravi ferite, e non potettero opporsi perché noi impedimmo loro di fare anche un gesto. E, malgrado tutti i miracoli e prodigi, il principe Mastema non si vergognò fin quando si sentì forte, e gridò agli egiziani di inseguirti con tutta la loro forza. Coi loro carri, i loro cavalli e tutte le numerose genti d'Egitto. Ed io stetti fra gli egiziani, ed Israele, e liberammo Israele dalle loro mani, e dalle mani degli egiziani. E il Signore li fece scampare attraverso il mare, come se fosse stato terra arida. E tutti i popoli che egli aveva fatto uscire, inseguivano gli Israeliti e il Signore, nostro Dio. Li gettò in mezzo al mare, nelle profondità dell'abisso, sotto ai figli di Israele così come gli egiziani avevano gettato nel fiume i loro figli. Li vendicò a migliaia di migliaia e molti uomini validi e combattenti perirono per ogni poppante che essi, di tra i figli del tuo popolo, avevano gettato nel fiume. E i giorni 14, 15, 16, 17 e 18, il principe Mastema stette legato, e chiuso dietro ai figli di Israele affinché non facessero male ai figli di Israele. E il giorno 19 noi li sciogliemmo affinché andassero in aiuto degli egiziani. E questi inseguissero i figli di Israele e rafforzò i loro cuori e li rinvigorì ed egli ebbe forza dal Signore, nostro Dio. Per percuotere gli egiziani e gettarli nel mare. E il giorno 15 noi lo legammo affinché non causasse male ai figli di Israele nel giorno in cui avrebbero chiesto agli egiziani abiti ed oggetti, oggetti d'oro, d'argento e di ferro, sì che essi, dato che li avevano dominati con oppressione, depredassero gli egiziani invece di esser loro soggetti. E noi non facemmo uscire i figli di Israele nudi dall'Egitto. '49 Pasqua. Ricordati degli ordini che il Signore ti dette a proposito della Pasqua, che tu la faccia a suo tempo. Il 14 del primo mese, che tu sgozzi prima di sera affinché lo mangino di notte. Quando è la sera del 15, dal tramonto del sole, poiché questo giorno è la prima festa e la prima Pasqua. E anche voi mangiavate l'agnello pasquale in Egitto, e tutti gli eserciti di Mastema fu mandati in Egitto per uccidere tutti i primogeniti in territorio egiziano, dal primogenito del faraone fino a quello della serva addetta alla macina, degli animali. E questo è il segno che il Signore diede a loro, che in tutte le case sulle cui porte avevano messo il sangue dell'agnello di un anno, non si entrasse in casa per uccidere quelli che vi erano rinchiusi, ma che si passasse oltre, affinché si salvassero tutti coloro che erano nella casa, dato che sulla porta vi era un segno fatto di sangue. Gli eserciti del Signore fecero ogni cosa così come il Signore aveva loro ordinato, passarono oltre le case dei figli di Israele, e non capitò ad essi il flagello della distruzione di tutte le loro anime, dagli uomini fino agli animali e ai cani. E vi fu gran flagello in tutto l'Egitto, e non vi fu casa in Egitto nel cui interno non vi fosse un cadavere, pianto e lamento. E tutto Israele se ne stava a mangiare carne di Pasqua e a bere vino, a lodare, celebrare e benedire il Signore, Dio dei suoi padri. Ed era pronto ad uscire dal giogo dell'Egitto e dal suo vassallaggio. Ed anche tu ricordati, per tutto il tempo della tua vita, di questo giorno, una volta all'anno, nel giorno in conformità a tutta la legge, e non ritardare n, il giorno n, il mese, poiché è legge eterna, scolpita per i figli di Israele sulle tavole del cielo, che essi facciano, in tutti gli anni, le feste una volta all'anno, per tutte le loro generazioni. E non vi è termine di tempo, poiché è stabilito per l'eternità. E se l'uomo è puro e, nel giorno fissato, non viene ad offrire l'offerta gradita al Signore nel giorno della sua festa e a mangiare, e a bere, al cospetto del Signore, nel giorno della sua festa, quell'uomo che è puro e vicino sarà sradicato, perché non avrà offerto, al suo tempo, l'offerta del Signore e porterà, quell'uomo, la sua colpa, sì che siano i figli di Israele a venire, e a far Pasqua nel giorno stabilito, il 14 del primo mese, al vespero, dalla terza parte del giorno fino alla terza parte della notte. Poiché due parti del giorno sono date alla luce e una parte alla sera, questo è quel che il Signore ordinò. Che tu la faccia in mezzo al vespero, e non sia la sua mattazione in tutte le ore di luce, ma nel tempo vicino ai vesperi, e lo si mangi di sera, fino alla terza parte della notte. E quel che rimane di tutta la sua carne dopo la terza parte della notte, lo si bruci di nuovo. E non lo si cuocia in acqua e non lo si mangi crudo, ma arrostito al fuoco e cotto al fuoco, con cura. La testa, con le interiora e i piedi, li si arrostiscano al fuoco e non vi deve essere rottura di ossa all'interno, poiché dai figli di Israele non si rompe alcun osso. Perciò il Signore ordinò ai figli di Israele di far Pasqua nel giorno fissato. E non vi è rottura di alcun osso, perché è giorno di festa e giorno comandato, e non vi è rimando, di giorno in giorno e di mese in mese, poiché la festa si fa in giorno. E anche tu ordina ai figli di Israele che facciano Pasqua al suo tempo, ogni anno, una volta all'anno, nel giorno fissato. E il loro ricordo sarà gradito al Signore e non capiterà loro, in quell'anno, flagello di uccisioni o di percosse se avranno fatto la Pasqua al suo tempo, in tutto secondo il suo comandamento. Non lo si deve mangiare fuori del santuario del Signore e tutto il popolo, società di Israele, lo faccia al tempo fissato. E tutti coloro, dai 20 anni in su, che vengono nel giorno, lo mangino nel santuario del vostro Dio, avanti al Signore. Perché così è stato scritto e stabilito, che lo mangino nel santuario del Signore. E i figli di Israele, da quando saranno entrati nella terra che occuperanno nel territorio di Canaan, e pianteranno il tabernacolo del Signore, in mezzo alla terra, in una delle loro travi, fin quando sarà costruito il santuario del Signore sulla terra, vengano e facciano la Pasqua al centro del tabernacolo del Signore. E sgozzino, innanzi al Signore, di anno in anno. E quando sarà stata costruita, al nome del Signore, la casa sulla terra della loro eredità, essi andranno colà e sgozzeranno l'agnello pasquale di sera, al tramonto del sole, nella terza parte del giorno. E offriranno il sangue ai piedi dell'altare. E il suo grasso lo pongano sul fuoco che si trova sull'altare. E ne mangino la carne abbrustolita al fuoco, nel recinto del santuario, nel nome del Signore. E, nei loro paesi e in tutte le terre, non potranno fare la Pasqua se non innanzi al tabernacolo del Signore o, almeno, innanzi alla casa nel cui interno ha dimorato il suo nome. E non devieranno dal seguito del Signore. E anche tu, o Mosè, ordina ai figli di Israele che osservino la legge della Pasqua, così come vi fu ordinato di fare di anno in anno, nel suo giorno, la festa degli azimi. Mangiano pane azimo per 7 giorni. Celebrino la sua festa e offrano la sua offerta, di giorno in giorno, in quei 7 giorni di gioia, innanzi al Signore, sull'altare del vostro Dio. Infatti questa festa la faceste, poiché la celebraste presso il lido del mare, quando usciste, con turbamento d'animo, dall'Egitto fin quando passaste il mare al deserto di Sur. Legge. E, dopo questa legge io, nel deserto del Sinai che è fra Elom e Sinai, ti ho parlato dei giorni di sabato, e sul monte Sinai io ti ho anche parlato dei sabati della terra. E ti parlammo anche degli anni giubilari in settenni, ma non ti dicemmo l'anno nel quale entrerai nella terra che occuperete. Ed anche la terra celebrerà i propri sabati e ad essi, essendo stati su di essa, apprenderanno l'anno del giubileo. Perciò io ho stabilito, per te, settenni e giubilei, dal tempo di Adamo ad oggi, sono 49. Un settennio e 2 anni. E, poi, 40 anni mancano per conoscere gli ordini del Signore, fin quando, avendo oltrepassato il Giordano ad ovest, passeranno, al di là, nella terra di Canaan. E passeranno giubilei fin quando Israele si purificherà da ogni fornicazione, peccato, impurità, abominia, colpa e frode e starà, degno di fiducia, in tutta la terra e non vi sarà più, ben per lui, alcun satana o alcun maligno e la terra sarà, da allora nei secoli, pura. Ed ecco, Io ho scritto per te anche il comandamento dei sabati, e le regole delle sue leggi. Lavorerai per 6 giorni e il 7° giorno è il sabato del Signore, vostro Dio. Non fate, in questo giorno, alcun lavoro, voi, i vostri figli, i vostri servi e le vostre serve, i vostri animali e quelli che vivono presso di voi. E colui che, in esso, fa qualche lavoro, muoia. E chiunque lo profani, chi si corica con la moglie, e chi parla in maniera da compiere, in detto giorno, viaggi per ogni specie di vendita o commercio? E chi attinge, in tal giorno, l'acqua che non si è preparata nel 6° giorno? E chi solleva ogni cosa che egli debba caricarsi addosso, per portarlo fuori dalla sua casa o dalla sua tenda, muoia. Non fate, nel giorno di sabato, alcuna cosa che non avete preparato, per voi, nel 6° giorno. Questo giorno, nel vostro tempo e sempre, per tutto Israele, è giorno santo, giorno del regno santo per mangiare, bere, riposarsi ed astenersi, in esso, da qualsiasi lavoro, per benedire il Signore vostro Dio che vi ha dato un giorno di festa. Poiché grande è l'onore che il Signore ha dato a Israele, di mangiare, bere e saziarsi in questo giorno di festa, e di riposarsi da qualunque lavoro di fra i lavori dell'uomo, eccettuati il bruciare incenso, e l'offrire oblazioni, e sacrifici innanzi al Signore, per il tempo sabati. Solo questa opera si fa, in giorni di sabato, nel santuario del Signore vostro Dio affinché si offra, come ti ho ordinato, il sacrificio in favore di Israele sempre. Di giorno in giorno, per il giorno di commemorazione che si offre al Signore, e che Egli accetta sempre, di giorno in giorno. E chiunque faccia, in esso, lavori, e chi vada in viaggio, e chi si dedichi ai lavori dei campi, o in casa o in altro luogo, e chi accenda il fuoco e chi cavalchi animali, e chi vada in barca, per mare, e chi percuota e uccida chiunque, e chi sgozzi animali e uccelli e quelli che ha preso al laccio, o fiere uccelli o pesci, e chi digiuni e faccia guerra nel giorno di sabato e colui che faccia qualsiasi di questi nel giorno di sabato, muoia, affinché i figli di Israele stiano a celebrare il sabato secondo il comandamento dei sabati della terra. Così come è scritto nelle tavole del cielo che mi dette in mano affinché io scrivessi per te la legge del tempo, e il tempo in ogni suddivisione dei suoi giorni. Qui finisce il libro della suddivisione del tempo. Spetta lode al Signore di tutte le creature, al Re dei Re, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.